possiamo considerare la retina come una vera e propria estroflessione del cervello verso il mondo esterno. In sostanza il meccanismo della visione è la risultanza di una serie di complessi fenomeni che hanno all'inizio la trasformazione dello stimolo luminoso in stimolo elettrico, sì, e poi la trasmissione di questo stimolo elettrico dalla retina fino al cervello. La trasmissione, la trasformazione dello stimolo luminoso in stimolo elettrico avviene a livello della retina in cellule specializzate che sono i bastoncelli situati nella periferia della retina e che rispondono prevalentemente a stimoli di bassa luminanza, al crepuscolo per esempio. Sì. Invece all'interno della retina, proprio al centro della retina, nella parte nobile, abbiamo una maggiore densità di coni che sono responsabili della visione distinta e della percezione dei colori. Poi queste cellule si connettono tra di loro all'interno di una complessa struttura architettonica molto funzionale a livello della retina con altre cellule che sono le cellule ganglionari, che sono delle vere e proprie cellule nervose. Le cellule nervose hanno un assone, hanno un filamento che poi si prolunga, tutti questi filamenti vanno a formare il nervo ottico e il nervo ottico poi arriva fino a un punto centrale del cervello che ha il compito di amplificare questi segnali. Da questo punto, che si chiama nucleo gingivicolato, poi partono altri filamenti, altri assoni che arrivano fino alla corteccia cerebrale occipitale, per intenderci situata dietro la nostra nuca, sì, dove avviene la rappresentazione massima di quello che noi vediamo, ma poiché la parte nobile dell'occhio è la macula, in quest'area cerebrale avremo un'estesa rappresentazione proprio della macula stessa.